Gli ultimi eventi riguardanti l'aumento degli sbarchi negli ultimi giorni a Lampedusa mi sembra che ribadiscano una serie di punti. Il primo, che le politiche finora adottate a livello nazionale e anche quelle non adottate a livello europeo di fatto dimostrano una grande lacuna, non funzionano. Non hanno funzionato a suo tempo le politiche per il respingimento delle carrette del mare, non funzionano ora queste ipotesi di accordi di riammissione. Per quanto riguarda la Libia va considerato un doppio elemento, secondo me. Da una parte che l'Italia sta cercando di utilizzare questo accordo con la Libia per uno scopo puramente politico, cioè quello di proporsi come un partner privilegiato a livello europeo per accordi di cooperazione rafforzata nel settore dell'immigrazione. La seconda è che la Libia vuole usare invece questa ipotesi di accordo di riammissione per rompere, sotto un certo punto di vista, una forma di embargo politico e proporsi come un interlocutore privilegiato dell'area magrebina nei confronti dell'Italia e poi appunto anche nei confronti di altri paesi europei. Questa è la riflessione di tipo politico. Dal punto di vista invece sostanziale, gli accordi di riammissione, come quello appunto che l'Italia già a suo tempo col governo centrosinistra concluse con la Tunisia e quello che dovrebbe essere concluso con la Libia, non fanno altro che perpetuare un errore di fondo, cioè quello di confondere da una parte i cosiddetti rifugiati economici con i potenziali richiedenti asilo e quindi di fatto contribuendo a sminuire e a violare anche i diritti fondamentali sull'assistenza umanitaria e la concessione dell'asilo politico e dall'altra non fanno altro che rafforzare la convinzione, soprattutto dopo l'11 settembre, che le questioni delle migrazioni siano da affrontare come questioni esclusivamente di sicurezza dei confini e invece dare maggiore enfasi a tutte le politiche di accoglienza, di integrazione diciamo, e di concessione di diritti fondamentali di cittadinanza. Questi elementi mancano del tutto nella legge Bossi-Fini che va riconosciuto con una forma anche di autocritica, in alcuni aspetti porta alle estreme conseguenze alcuni istituti già creati con la Turco-Napolitano, come ad esempio i centri di permanenza temporanei, come ad esempio tutte quante le idee, il concetto di accordi di riammissione. Almeno noi come parlamentari dobbiamo chiedere una serie di punti. Il primo, non confondere, non considerare i potenziali richiedenti asilo come potenziali clandestini o comunque sia gente che vuole cercare di evadere le regole, che quindi l'unica maniera per risolvere il problema è quello di creare magari dei centri di accoglienza di detenzione temporanea all'estero, quindi esternalizzando e scaricando su altri responsabilità che sono quelle di un governo di uno Stato sovrano, cioè quelle di garantire il principio costituzionale dell'accesso alle procedure per la richiesta d'asilo. Secondo me oggi il punto fondamentale è proprio questo, non quello di continuare a fare dell'immigrazione un problema di sicurezza e confondere l'immigrazione clandestina alla stessa stregua delle minacce rappresentate dal terrorismo. Non dico io, ma basta leggere i documenti dell'ultimo trattato di Washington sulla NATO o anche vedere, ad esempio, come noi oggi finanziamo delle missioni militari come Active Endeavor e Resolute Behavior in Afghanistan e uno degli obiettivi principali è quello del pattugliamento delle acque internazionali per prevenire l'immigrazione clandestina.